Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Fatto la cosa che ha fatto Conte, perché questa è una squadra che sta facendo molto bene, sta dando tutto. Ho letto che lui non ha concesso un giorno di riposo. Non sono mai stato per queste cose, io i castighi non li ho mai dati, non mi piacciono i castighi, mi piace ragionare, parlare, guardo altri allenatori che hanno fatto la storia della Juventus, guardo Lippi, guardo Trapattoni, sono sempre molto rispettosi, sono sempre molto educati del lavoro degli altri, ecco, cosa che non fa lui. Va benissimo, poi quando parlano un guru del calcio italiano, noi dobbiamo stare zitti, essere, inchinarci, fare reverenze e dire zibadrone. Mi ricordo la Juventus di Lippi, la Juventus di Trapattoni. La Juventus di Capello mi ricordo perché ha vinto e sono stati revocati due scudetti, ecco, per quello mi ricordo. Bella battaglia, eh? Lorenzo Nespoli in redazione oggi, Roberto Scaltritti in regia. Il weekend è stato più eccitante per quello che è successo intorno al campo, intorno alle partite, nelle parole, più che quanto abbiamo visto sul campo, dove in fondo non è cambiato nulla. Scontri a distanza più o meno ravvicinata, scazzi, lampi di guerriglia, tutto molto interessante. Guarda chi c'è, Maurizio Crosetti, Repubblica, mio autore preferito. Ciao Mao, non c'è, ma sì che c'è, dai. A Cepardo? Eh sì. Se si era nascosto. Ciao, sì. Ciao Pierluigi. Si è nascosto qui dietro di me. Ma è nascosto dietro di te. Adesso lo chiamiamo. Come va? Benissimo. No, sto Sunday Bloody Sunday, dai, ci sta, eh? An amazing song, eh? An amazing aerial song for really this Sunday of struggle. Can't believe the news today. No, divertente, questo confronto a distanza tra Capello, il grande censore, e Conte, che difende la sua Juventus, il suo momento storico, mi viene da dire. Sì. Chi ha ragione? Ma, insomma, chi ha ragione? Vuoi più bene a mamma o papà? Sicuramente è una polemica sgradevole, non è una polemica indotta dalle TV. Cioè, no. No, perché c'è qualcuno che dice... cioè, è tutto vero, è tutto vero. L'ostilità, il nervosismo di Conte ieri non è una costruzione giornalistica, è la verità, la pura verità. La simpatia, io avevo il sospetto da un po' che fosse poca fra i due, poi ci possono essere ricostruzioni più o meno dietrologiche sul rapporto molto forte e profondo che Capello continua ad avere con personaggi importanti comunque del management della Juve, magari il sospetto da parte di Conte che non sia completamente amato ed apprezzato dall'ex allenatore bianconero, sicuramente insomma non c'è simpatia, dopo ieri l'abbiamo capito con grandissima chiarezza. Però è curioso, è arrivato Maurizio Crosetti. Maurizio, eccolo, sei? Eccolo. Buongiorno cari. Buongiorno a lei. Curioso in questa diatriba che trovo carina, che trovo interessante, sentire Conte che sfrucuglia l'argomento degli scudetti di cartone, cioè qualcosa che in casa della Juventus insomma non si fa tutti i giorni, no? Si fa in altro modo. Non si può fare, no, era quasi buffo ieri ascoltare Conte di fatto ammettere i due scudetti revocati, anche se poi c'è stata una correzione di rotta, però insomma quello ha detto, ormai la frittata l'aveva servita, insomma, e dire di questa cosa proprio dentro uno stadio che ha al suo esterno un enorme scudettone, non credo di cartone, probabilmente sarà di, non so, di lamina d'acciaio, forse di lamiera, sì, di vetrolesina, che ha anche un numero quello scudettone lì, il numero è 31, quindi forse qualcuno deve avvertire Conte che per la sua società gli scudetti sono 31 e non 29, e poi qualcuno dovrebbe anche dirgli che Giraudo che Capello continua a sentire Giraudo, Giraudo continua a sentire Andrea Agnelli, e Andrea Agnelli è presidente di Conte, cioè ha pestato la cacca d'elefante. Ecco, no, però scusami, io ha pestato una cacca d'elefante. No, scusa. Allora a questo punto andiamo avanti con la nostra ricostruzione dietrologica, ovviamente tutta da dimostrare, perché quello che dice Maurizio è verissimo, però è il discorso del rapporto causa-conseguenza, cioè siamo sicuri che Conte questo sfogo non l'abbia fatto proprio perché Capello sente continuamente Giraudo che parla con Agnelli, infatti, sembra la fiera dell'Est. Infatti io sono stato malizioso e tu te ne sei accorto subito, è certo che è questo il problema, è ovvio che è questo. Infatti, no, ma siamo completamente allineati, quindi a questo punto bisognerebbe capire se realmente in queste chiacchiere innocenti si nasconde dell'ostilità nei confronti di Conte, quanto siano innocenti o meno queste chiacchiere, anche perché diciamo la verità, Conte, scusami, Capello non è uno che in questo momento è a caccia di lavoro, no? Cioè non è uno che vuole pensare, pare, anche perché i soldi che gli dà la Federazione Russa non gli dà nessun altro al mondo, appena rinnovato il contratto, quindi un rischio da questo punto di vista non ci può essere. Quello che ma no, anche perché Capello ha detto che la Juventus non ha grandissimi avversari, questo dà molto fastidio a Conte, perché Conte invece non vuole mai che sia sminuito il suo lavoro, e questo lo si può anche capire, ma però, Conte, posso dire Capello, che secondo ha parlato me... male della Juve, no, ha parlato solo bene della Juve, però posso sì. Posso dire che questa è una mezza sciocchezza, perché allora Barcellona e Real Madrid, come ho detto l'altro giorno, quali avversari hanno, quali competitor hanno? Il campionato inglese siamo d'accordo, quello tedesco è strano, molto sui generis, molto sentito, possiamo anche dire che è più competitivo, quello francese, vabbè, è lì, è inutile andare a guardare altri campionati oltre cortina, mi sembra che la storia stia in questi fatti, il campionato spagnolo è ridicolo. Sì, ma poi non c'è la proprietà transitiva, cioè non è che se tu ti alleni fortissimo in Italia poi vai a vincere la Champions League perché hai grandi avversari, magari la perdi ai rigori, cioè il calcio lo sanno benissimo Capello, Conte, tutti, è fatto spesso di sfumature, di casualità, e comunque ripeto, il fatto che non sia tanto allenante la Serie A, come la parola scelta a Capello in intervista alla Gazzetta con Paolo Condò, è un dato di fatto, cioè non ha bestemmiato, e anche il fatto che abbia detto di non aver mai dato un giorno di punizione, lui che non passa certamente alla storia del calcio per essere un simpatico compagnone dei giocatori, ma anche questo, voglio dire, ci sta, e dei giornalisti, io nella mia vita non ho mai dato punizione, è chiaro che poi Capello quando parla un po' di acidità ce l'ha, perché nel derby della simpatia tra Capello e Conte finisce sempre pari, sì, questo non fa una piega, dice sempre pari. Capello non grande amico neanche dei giornalisti, sono episodi del passato, per cui vabbè, lasciamo stare, magari li rimembriamo dopo. Silvia, rimembri ancora. Tutti convocati. Straordinario, un giocatore diverso, un giocatore che ti fa un salto di qualità, che puoi vincere una partita da solo, un giocatore individualista, però che sicuramente uno lo vuole in qualche squadra, no? No, non credo fragile, al contrario, io credo che un uomo che riesce a trasmettere sentimenti è forte, non fragile, al contrario. El Cholo Simeone, altro bell'argomento. Mario Balotelli, so che a Pardo fa impazzire parlare di questo argomento, quindi giro. Come? Non ho capito. È una gag, è una gag. Non ho sentito. No, parliamo, mancherebbe altro. Prometto che non pronuncio altri nomi. Però, insomma, Balotelli ha fatto di tutto venerdì sera per dare ragione al Cholo Simeone, per smentire Boban, in parte Seedorf, per quanto Seedorf appunto sia stato tirato un po' per la giacca da una parte in questa diatriba. Partita morta e sepolta, che il Milan ha giocato in maniera pessima e che è stata resuscitata esclusivamente da uno sparo nel buio. Mau? Sì, Balotelli non si capisce mai se sia un rianimatore o un animatore. Anatomopatologo. Un animatore. Qualche volta sembra, o forse un killer, no? Ha l'istinto assassino, qualche volta verso se stesso ed è un omicida. spesso verso gli avversari di un killer. Che dire, non c'è nulla di nuovo. Io credo che quando Seedorf dice non è ancora il campione che può essere, non vuole certamente dire non è un campione, ma vuol dire può diventare molto di più. Quindi anche su questa faccenda mi pare che qualcuno poi si permalosisca troppo. Poi insomma, Balotelli stia sereno, centri la porta da qui alla finale di Rio de Janeiro, dove non credo che arriveremo, ma non si può mai dire, e basta. E poi il resto, certo, se contro l'Atletico si inventa un altro numero del genere, il Milan ha una possibilità di passare il turno, anche se l'Atletico insomma non è forse più quello di qualche settimana fa, altrimenti senza quei palloni vaganti lì diventa molto dura per il Milan. Certo, ma poi posso girare la domanda: se quella non se la inventa Balotelli, il Milan si schianta flebilmente contro qualunque scoglio difensivo, Pierluigi? Sì, però io ti dico, su Balotelli, nel bene e nel male, io secondo me le cose diventeranno statisticamente rilevanti quando succederanno, per un numero di ripetizioni, sto parlando come un insegnante di statistica, per un numero di ripetizioni congruo, mi spiego. Non mi sorprende il capolavoro di Balotelli da 40 metri, così come non mi sorprenderebbe vederlo domani mattina fare l'ennesima cosa, diciamo, nervosa e buttare tutto all'aria. Parleremo di svolta nel bene o nel male di Balotelli quando succederà una cosa per 2 mesi, 3 mesi. Ecco, se per 3 mesi Balotelli non insulta un arbitro, non fa gestacce ai tifosi, sì, non reagisce male, non viene squalificato, fa polemiche, ecco, a quel punto quella sarebbe notizia. Sì, 2-3 mesi, sì, è il tempo, sì, minimo, sì, secondo me. Sì, ovviamente, sì, anche nel male, cioè, no, ma io sono d'accordo con te. Se non regala niente di clamorosamente bello, tipo la giocata dell'altro giorno, per 2-3 mesi, a quel punto possiamo cominciare a pensare che ci sia una tendenza, altrimenti siamo sempre aggrappati alla cosa che l'altro giorno non stava giocando bene, poi il talento ce l'ha e quindi c'è la grande giocata. Sì, poi arriverà inevitabilmente. Io però penso un'altra cosa, è verissimo questo, però ogni volta che ci troviamo di fronte a grandi artisti un po' pazzoidi, capiamo che è impossibile scindere le due cose, nel senso che se Balotelli arriverà a quei 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, secondo me sarà forse maturo, ma forse molto diverso, e forse è inimmaginabile. Pierluigi è un grande amico di Antonio Cassano, e io ho sempre pensato di lui la stessa cosa: se tu togli a Cassano la corda pazza, tra virgolette, la citazione pirandelliana, se no qualcuno querela, non è più Cassano, e Balotelli senza le sue mattane forse non fa neanche più gol da 40 metri. Non lo so, può darsi vero, che vero. No, ma quando hanno provato a normalizzarlo, di fatto è così, no? Ti ricordi, Maurizio? Quando hanno provato a normalizzarlo, via la Ferrari, via la cresta, comportati bene, fa il bravo. Per i personaggi bisogna prendere tutto, voglio dire, come quando si va a fare la spesa, sì, no? Cioè, prendi anche la carta del prosciutto, no? Sì, non solo il prosciutto. Io per esempio su Cassano penso che ci sia stata una normalizzazione che qualche volta in alcuni momenti ha un po' offuscato il talento. Cioè, io penso che oggi Cassano sia un giocatore, certo, più continuo, secondo me migliore rispetto a qualche anno fa, sicuramente più affidabile, più continuo e magari meno esplosivo e meno geniale anche rispetto alle punte degli anni, quelli proprio della follia totale. Detto questo, vabbè, insomma, beh, d'altra parte, se dai il Prozac a Baudelaire e Rimbaud, magari no, non scrivono quello che hanno scritto, no? Credo che meriterebbe comunque una possibilità, poi magari non lo si porta al mondiale, ma scusate il momento, questo è il momento che vi ho offerto dall'associazione Amici di Castiglione. Però mi sembra personalizzato, faccio una musichetta con la penuria di attaccanti che c'è in questo momento, rinunciare a priori perché non c'è la possibilità di fare un chiarimento su che cosa, poi non l'abbiamo mai capito, perché sì, insomma, Cassano ha finito con Prandelli in campo da titolare alla finale dell'Europeo, sì, quindi voglio dire, non è che dici l'ha fatto giocare alla finale dell'Europeo, quindi che è successo? Sul volo del ritorno c'eravamo tutti insieme, no? Non lo so, sinceramente, mi sembra... No, una ragione poi magari fra 2 mesi c'è di meglio. Una ragione non è stata quantomeno resa pubblica. Non è stata quantomeno resa pubblica. Ragazzi, io vorrei parlare con Giuseppe da Varese e Gianni da Milano, approfittando della vostra presenza, con Rosetti e Pardo. Giuseppe, sì, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi. Sono un assiduo frequentatore dello stadio di Torino. Da tanti e tanti anni. Sponda? Juventus. Naturalmente. Ieri ero presente, ho assistito anche alla brutta scena dei fischi, che non, sinceramente non mi è piaciuta, perché comunque... A chi? A Giovinco? Sì, esatto. Io non ho partecipato, primo perché non so fischiare, e vabbè, secondo perché non la trovo una cosa giusta comunque. E poi volevo dire una cosa su Capello. Scusa, ma perché non è giusta, ha giocato male? cioè non mi sembra che stia... male, ma non erano i fischi dovuti nati dalla partita di ieri, era una cosa che era già erano pronti tutti ad aspettarlo. Secondo me doveva lasciarlo dentro, non doveva tirarlo fuori a questo punto sul 3-1. Se voleva evitargli questa situazione. Vabbè. Secondo me. Sì, e poi volevo dire una cosa su Capello che mi sta molto a cuore, visto che l'ho viste tutte le partite, il signor Capello. Lui con la Juve ha fallito, perché è vero che ha vinto 2 scudetti, però è anche vero che è stato chiamato lì per un'altra cosa, e lo sappiamo tutti qual è. Vabbè. Perché lo scudetto l'aveva vinto 2 anni prima la Juve, nel 2002. L'anno dopo è arrivata seconda, però lui è stato chiamato per un'altra cosa, e lì ne è uscito con le ossa rotte. Quindi scusami, quest'anno secondo te la Juve sta fallendo? Perché ha vinto il campionato per 2 anni consecutivi, è certamente la squadra più forte d'Italia, quindi se quest'anno... Ma io ricordo la prima intervista di Conte, quando è arrivato, ha parlato di progetti, si parlava di una squadra a un certo tipo di livello nel giro di 4-5 anni, quindi qua si è già andati comunque già un po' più veloce. Sì. No, ma io sono d'accordo, cioè per me Conte è un fenomeno. Siamo avanti. Non riesco, scusate, non voglio fare il democristiano, per me sono due fenomeni, uno è più giovane, ha vinto di meno, ha tempo, l'altro ha tutta una carriera che l'ha dimostrato. Dico che secondo me quei 2 anni lì di Capello, al netto di tutto il discorso di Calciopoli, nel merito del quale non voglio entrare, non possono essere considerati un fallimento perché non ha vinto la Champions League. Veramente mi sembra una ricostruzione un po' severa, e dico che se questo è il principio, allora quest'anno l'eliminazione nel girone di Champions per la Juve dovrebbe essere considerata, e lo è poi di fatto, un disastro. Detto questo, però, secondo me se Conte vince il campionato non è una brutta stagione. Io non mi sentirò di dire che ha fallito perché ha vinto solo il campionato. Certamente la campagna europea, ora vediamo l'Europa League, quella sì può essere a tutti gli effetti bollata come un fallimento. Questo sì, perché uscire in quella maniera è stato un fallimento, probabilmente il primo della Juventus di Conte, no? Maurizio? È stata fallimentare la gestione di quasi tutte le partite della prima fase all'interno di una grande annata, e così come furono delle grandi annate quelle della Juve di Capello in Italia. La Juve di Capello giocava come molte squadre di Capello in questi anni, cioè vincendo e non concedendo molto di sé allo spettacolo, e si sa, ma Capello fa giocare così, dopodiché aveva anche dei giocatori incredibili, uno su tutti, Ibrahimovic, che Conte non ha, anche se anche lui ha delle buonissime carte, no, da giocare. Quindi no, la parola fallimento non si può usare solo perché non si vince la Champions, anche perché non la vince nessuno da tanti anni la Champions, la vince uno solo, cioè. Tutti gli altri hanno fallito, no, se vogliamo, compreso il finalista, se vogliamo usare questo parametro. Mi pare però che la Juventus di Capello fosse più attrezzata rispetto a quella di Conte sul fronte europeo, cioè facendo i rapporti di forza. Diciamo che quella di Capello aveva giocatori tali per cui ci si poteva aspettare certamente un cammino migliore. Quella di Conte è andata l'anno scorso a sbattere contro la più forte squadra al mondo in quel momento, il Bayern Monaco, e quest'anno è inciampata malamente, come molte volte è accaduto nella storia della Coppa dei Campioni juventina. Chi conosce la storia della Juve sa che quello è un terreno minato. Certo. Sa che la Coppa dei Campioni, poi Champions League, porta sfiga, e non parliamo di dell'Eiser, perché non si fanno battute sui morti. Quella è stata una tragedia, ma al di là della tragedia ci sono state tantissime situazioni proprio di sfiga. Io quando la Juve cade in Champions non mi stupisco più, perché io la conosco, la storia della Juve, molto bene. Quindi non si può parlare di fallimenti, dopodiché non si può uscire a Istanbul in quella maniera. Si può parlare solo di stelle. Le stelle del calcio, quando gioca la Juventus in Coppa, si girano dall'altra parte. Maurizio, prima di salutarti, mi lasci un post-it sulla vittoria dell'Inter, con Palacio che torna al gol e segna addirittura il tronista in fuori gioco. Ma io sul post-it vorrei scrivere che adesso parleremo forse per 5 minuti di Icardi, perché fai gol al volo. Quindi 5, lui si è portato molto avanti 5. Col lavoro. Però non poi, poverino, mentre lo dico sto pensando ad altro, quindi lui è condannato ad essere sì, ma è un condannato volontario. Esatto, io è condannato perché così vuole essere. Su Twitter vorresti essere al suo posto. Anche ieri mi pare che, insomma, dopo il gol ha cercato subito un telefono. È andato allo zoo ieri. Ma sì, ho visto la foto sulla Gazzetta, cioè, per scriversi delle simpatiche arrapanti porcate, ci sono i messaggini, c'è la chat su Facebook, c'è WhatsApp, c'è di tutto ormai, se ti piace, no? Ecco, e quindi lì no, va benissimo, probabilmente c'è una componente esibizionistica, io non giudico nessuno, però poi uno non può arrabbiarsi. Esatto. A me c'è una sola cosa di Icardi che io non capisco, per il resto poi condivido tutto e sono fatti i suoi, che lui si sia arrabbiato l'altro giorno dopo il gol. Perché per quanta adrenalina può avere in corpo un giocatore che comunque ha delle pressioni, in quel momento segna e si vuole sfogare, ma lì te la sei cercata lui, certo, l'ho cercata loro che certo, hanno cominciato a sfruttare, raccontandoci tutto, quasi tutto, diciamo. Noi dai, giuro, ne facevamo volentieri a meno, ma sì, penso di poter spendere un giuramento per Crosetti e per Pardo. Sì, sì. Maurizio, ti ringrazio. No, tu no, tu non lo potevi fare meno. Senza l'arrabbiatore di Cardi, per me non è la stessa giornata. Quindi, quando lui non twitta, quando lui non fa delle allusioni, io vado a letto un po' intristito. Quindi, te lo volevo dire, perché io sono dipendente molto, bravo, da questo ragazzo. Maurizio, grazie, ti abbraccio. Grazie a voi, abbracci, ciao Pier. Tutti convocati. Dunque, caro Pardo, non è male questo messaggio di Ulisse: Icardi è il Balotelli interista, ma solo fuori campo. Però io invece ti dico che, siccome poi il paese reale ci chiama... Il paese reale! Il paese reale, ma sto scherzando, il paese reale, quello, non leggerlo, che è un famoso blogger, ci dice, sì, ma nemmeno una parola sul gesto tecnico di Icardi, sì, una parola in effetti la merita. Il gol è fuori gioco. Sì, però il gol è bellissimo. Ma gol, sì, il gol rivela, no, infatti, una parola, anzi più di una. Il gol rivela comunque una grande qualità e, insomma, io credo che l'Inter l'altra sera abbia dato dei segnali enormi di crescita. Non è stata una piccola riforma, non è stata un piccolo brodino, una vittoria fortunata, è stata una rivoluzione la partita dell'Inter l'altra sera. Sul per cui... paese reale volevo farti sentire Renzi, ma mi è sfuggito. Fammelo sentire. Lo so, volevo fartelo risentire. Permetti? Certo. No, non c'è più, se no ecco, la TV te lo facevo. Paese reale. Gianni Milano, paese, buongiorno. Paese reale. Gianni. Signor Renzi. Sì. Signor Renzi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Da prima mi consenta. Le consento tutto quello che vuole. E farle presente che non si offenda, ma il suo modo non di fare giornalismo e quello dei suoi ospiti, io qualche anno più di lei, mi fa tanto rimpiangere la sì, radiotelevisione di un giovane Paolo Valenti, di un giovane Necco dell'Inter, sì, stiamo parlando di tutto. Purtroppo da quando ascolto Radio 24, questa trasmissione sta diventando una sorta di discoteca, nel senso sì, che non è il modo di parlare di sport, bisognerebbe usare modi un po' più pacati, secondariamente. Pacati, cioè del tipo, ecco. No, ma ci aiuti lei, cioè in che senso? Che ma cosa le piacerebbe sentire? Prima il suo ospite che parlava di SMS, di cose fuori dal campo che nulla hanno a che fare col calcio, insomma, stiamo parlando sì, di cose un po' più scusi, lei la Gazzetta dello Sport sa che è il primo quotidiano sportivo italiano, vero? Assolutamente no, io non compro giornali di sport per leggere perché notizie, poco le leggo sui quotidiani, ecco, perché credo che siano sufficienti. Sì. Ma poi hanno parlato pure i quotidiani politici di queste cose qui, cioè io sono d'accordo sul fatto che poi c'è la parte tecnica del calcio che è l'elemento preponderante, ma se i simpatici Icardi e Vandanara fanno tutto quello che fanno per settimane e poi nel momento nel quale Icardi torna e segna ha quella reazione lì, sarà un tema o no? Oppure dobbiamo far finta che non l'ha fatta quella cosa lì? Poi diverso è fare intere trasmissioni ospitando, facendo le prove del DNA su gravidanze, questo sono d'accordo, ma che in assoluto non si debba parlare di queste cose, invece non sono d'accordo, perché questo oggi fanno parte del calcio di un fenomeno di costume che si chiama calcio. Pagina 37 del Corriere della Sera di oggi, non so qual è la sua lettura, Gianni. Allora, pagina 37, mezza pagina, taglio alto: Icardi, il bomber del terzo millennio, una stagione in chiaroscuro, l'amore per Vanda, la pubalgia, il gol che può dare la svolta alla stagione, gol e tweet, l'ultimo polemico, non avete più niente da dire? Il Corriere della Sera, capisce? No, poi possiamo, io voglio prendere la parte positiva di questo discorso qui, che c'è sicuramente, perché guardi, io parlerei per ore, per esempio, di Tony Adams e Paul Merson, se dovessi decidere io come occupare i miei pomeriggi, però forse se parlo per un'ora, sì, di io non Tony so se Adams ti ascolto, e Paul Merson, posso dire. Tu mi ascolti? No, non lo so. Non lo so, vabbè, comunque prego, non volevo dibattito aperto, forse prego. Forse abbiamo finito. Non... Boris Sollazzo, ciao! Salve ragazzi! Siamo troppo frivoli, Sollazzo, dacci la linea, Sollazzo, siamo frivoli. No, ma anzi, io voglio dire, Icardi, a differenza di Balotelli, secondo me quella storia l'ha messa in campo, l'ha resa mediatica lui... ha creato lui tutto il casino, quindi ci sta tutto che poi se ne parli, soprattutto perché lui la cavalca, l'ultimo le orecchie, insomma, lui vuole che se ne parli, ecco, forse non bisognerebbe parlarne solo perché lui vuole, cioè solo perché si fa il suo gioco. Ma poi Boris, tu che bordeggi in maniera elegantissima, no? sul filo, che cammini sul filo tra il cinema, che era la tua materia, e lo sport, insomma, sai benissimo come si vive in questo tempo, perché adesso siamo qui a parlare dei tweet di Icardi, eccetera. Ma facciamo finta di dimenticare anche tutte le vicende, le love story sul nuoto. Ma meno male che ci sono queste cose, se no di che cazzo parliamo? Parliamo sempre degli soliti argomenti che ci tritano e ritritano tutte le volte. Ma e poi ci addormentiamo. Ma meno male che ci sono sti personaggi. Ma la bianca, no? Cioè, Ma sì, ma senza Twitter. Di Falcao, di Maradona. Ma la dama bianca senza di Falcao, ma dai, facciamo. Senza Twitter ci divertivamo come pazzi a vedere il ballo di Maradona per Parisi. Sì. Se non avessimo parlato di questo non si sarebbe creato il mito di Meroni, di Best. Il calcio è questo, è la cosa più bella del mondo, anche creare queste caratterizzazioni. Il calcio è veramente la metafora della vita, e quindi sì. O del cinema, anche come lo è anche il cinema, cioè servono i personaggi, serve una trama. Io mi diverto come un pazzo, ma ripeto, si diverte pure Icardi lo fa apposta, è un bomber del terzo millennio, perché ha una consapevolezza della sua immagine che probabilmente, che ne so, altri attaccanti non avevano fino a 5-10 anni fa. Lo stesso fa anche Balotelli. E con pardon della stampa, sì, Icardi lo chiamo il tronista e andrò avanti così. Ma fa parte del gioco. Ma perché la definizione più corretta l'ha data il mio amico Pierluigi Pardo: il calcio è il gioco più pop del mondo. E nel pop sta dentro anche tutto questo, che è inutile far finta di niente, perché voi sbirciate al buco della serratura e poi dite di no. Interessano a voi, interessano queste cose, mi dite di no e io non ci credo. David, buongiorno. Tanto buongiorno. Sì, io volevo chiedere, cioè, lei mi sembra un po' il Berlusconi quando diceva che l'Italia non era in crisi, che i ristoranti erano pieni, quando dice che la Liga è scandalosa, invece la Serie A cosa è? La Serie A non è bellissima, c'è di vuoti e squadre che non riescono neanche a pagare quasi lo stipendio ai calciatori e così. E poi un'altra cosa su Icardi, ok, Icardi può aver sbagliato tutto, però volevo capire perché non parlate di Gomez, che è stato pagato molto più di lui e ha toccato meno pallone di lui? Possiamo parlare di entrambi, ma Icardi mi sembra il fenomeno, ha avuto un infortunio parecchio serio, non... ma soprattutto Icardi io sono d'accordo con Boris, Icardi vuole che si parli di lui, perché se no non twitta, se no i messaggi se li manderebbe in privato, tra l'altro anche su Twitter ci sono i messaggi privati, se uno vuole che queste cose rimangano in una sfera di un certo tipo. Quindi loro sono stati entusiasti di questa cosa qui, c'è anche sicuramente il ruolo e il coinvolgimento di Wanda Nara, che è stata molto molto proattiva, che evidentemente in preda a una passione molto forte, di quelle che veramente ti senti che non puoi nascondere agli occhi del mondo, perché ti danno una gioia, una felicità e un arrapamento cosmico, e tutto questo alla fine va benissimo, ripeto, va benissimo, solo che uno non può lamentarsi. Cioè, se uno fa una dichiarazione al Corriere della Sera e poi non può lamentarsi perché l'ha fatta, se uno fa un tweet nel quale fa vedere che si è fatto il tatuaggio, che ti amo la follia, che sta solo per te, tu me vida, me gusta moltissimo, poi alla fine non ti lingua, eccetera, eccetera. Le 15 volte in 28 ore, cioè mica l'ho detto io, mica l'ho tirate fuori io. No, ma infatti noi ci siamo limitati a un applauso in piedi, voglio dire, una standing ovation. Non ha omologato il risultato, Non ha omologato il risultato, è sicuro? Non lo so, però andiamo. mi sembra la sua parola contro, no? Cioè, senti, facciamo Antonio D'Alecce, che poi devo chiedere a Sollazzo del Napoli. Antonio D'Alecce è Conte. Conte, ecco, Antonio Conte, buongiorno. Buongiorno a tutti. È ancora arrabbiato con Capello? Allora, io smetto di essere juventino. Antonio Conte è juventino, ci mancherebbe. Sì, Antonio Conte è anche D'Alecce. Volevo solo dire questo, che secondo me Capello è un grande allenatore e Conte altrettanto, però la gestione di Conte nei confronti dei giocatori è sicuramente difficile. Se lui prende la decisione di mettere tutti in punizione e magari all'interno dello spogliatoio qualcuno non è contento di questo, può creare quel malumore che dice: vedi, anche Capello te l'ha detto, e quindi va a inefficiare, a sminuire il lavoro di Conte. Credo che Capello, visto che è un grande allenatore, un grandissimo allenatore, quando bisogna parlare, parla di calcio, dice quello che ha visto tranquillamente, senza spiegare i suoi modi, perché probabilmente all'interno dello spogliatoio lui avrà fatto qualcosa di diverso, che non piace a Conte, che non piace a nessun altro. Io non ho mai sentito Ancelotti, che tra l'altro è un allenatore passato della Juve, sta sembrando parlare male o criticare il modus operandi Zaccheroni o di Allegri. Ma Antonio, sono personaggi diversi, cioè è proprio è quello di cui stiamo parlando. Dopo, se uno ti dice: io mi ricordo due scudetti revocati, te la prendi da Vencati e te la porti a casa. Sì, sono comunque personaggi diversi, attraverso per i quali c'è un diverso livello di dialettica. Pronto? Eccetera, eccetera. Pronto? Sì? Chi è? Pronto, Boris? Pronto, pronto. Boris, pronto, pronto. Chi voleva parlare? No, tra l'altro, interrompo l'impasse in maniera così un po' dittatoriale per dire che, fra l'altro, mi è venuto in mente che quando Capello vinse il famoso scudetto a Madrid con Calderon, ci furono delle punzecchiature da parte di Sacchi, alle quali lui rispose appunto dal punto di vista prettamente estetico del modo di giocare a calcio. Quindi è una specie di storia che si ripete al contrario. Io credo che in generale non sia piacevole. Cioè, io il punto di vista di Conte lo capisco, poi la reazione secondo me di ieri è scomposta, gli ha creato sicuramente anche dei problemi, l'ha portato anche a dover in qualche modo ritrattare con la dichiarazione successiva. Però insomma, questa non è però, è come Benitez, che ogni volta gli fanno una domanda sull'Inter e lui che fa ogni volta risponde. Lo stesso vale per Conte. Per me Conte ieri si è dimostrato il più grande allenatore italiano per come ha gestito l'affare Giovinco. Quello è un allenatore, sì, perché risponde a delle domande. Voglio dire, ha detto un'ovvietà: Capello se ne va e Del Piero, però Del Piero ci sta simpatico, a differenza di Antonio Conte, dice: se non manca nessuno qua qualcosa vorrà dire. Capello è l'allenatore vincente che è mancato meno a tutte le sue tifoserie. A Madrid ancora lo ricordano come il peggior Real Madrid, nonostante abbia vinto gli scudetti. Questo relativamente, però, Boris. Ascolta, aggiorniamo aspetta, Boris. Aspetta, aggiorniamo un attimo la discussione, tanto abbiamo il traffico. Rapidamente poi chiudiamo. Anzi, dovrebbero comunque scioccarsi la bocca di chi parla di Chiellini e che dice queste fesserie. Tutti convocati. 800 24 00 24. Io ovviamente aspetto altri ascoltatori. Stefano da Palermo è già in linea, ma volevo far chiudere il discorso a Sollazzo. Che stavi dicendo, Boris? No, dicevo che se tu parli con i tifosi madridisti, che sono di bocca buona, ti diranno che giocava malissimo, che Capello, per carità, sono contenti. Sì, ma quelli però hanno anche scocciato, perché anche con Ancelotti dicono che non giocano bene. Ma insomma, loro hanno bisogno. Mourinho non lo supportavano perché non giocava bene. Che vuoi? No, ma io sono d'accordissimo. Però detto questo, Capello non è uno che manca nei posti in cui è stato. Voglio dire, vi ricordate, dalla Roma lui se ne va e fanno lo striscione: Capello sei peggio di Bin Laden. Cioè, non è uno che lascia dei bei ricordi. Ha detto un'ovvietà Antonio Conte, semplicemente quella. Come Benitez, che dice: io ce l'ho con Moratti perché non ha mantenuto le promesse. Adesso diventa stucchevole, diventa fastidioso, perché è la decima volta che lo dice, ma diciamo pure che è la decima volta che glielo chiedono. Sì, questo sì, ma quanto Capello è un allenatore così, no? Terra bruciata, lui arriva, vince e poi si comincia. Esatto, no, ma è anche la sua grandezza, voglio dire, cioè è uno capace di farsi. Ma Benitez chiede Pardo se Benitez risponderà mai a Materazzi. Credo di no, ma proprio perché è quel tipo di intellettuale Benitez che non risponde a chi non crede alla sua altezza. È un atteggiamento molto snob che io non approvo. Ho grande simpatia per Materazzi, nonostante attacchi un uomo che, come sapete, per me è straordinario. però credo che lui stia tenendo quella tattica lì, cioè di non scendere tra virgolette al suo livello, perché poi Benitez sembra tanto buono e caro, ma in realtà è uno anche cattivello, cioè uno che sa graffiare. Magari non ha tanti argomenti a contrario, non lo so. Sì, e poi c'è una differenza fondamentale, che mentre Capello, come sottolineavamo prima con Crosetti, è ancora un'istituzione, non che Materazzi non lo sia, però Capello è un allenatore, è un guru dal punto di vista delle panchine, ed è, come sottolineavamo, un uomo che ha continui contatti con il mondo Juve, con Giraudo e quindi poi con Agnelli. Adesso è arrivata la dichiarazione di Moggi che dice che la polemica di Conte è assurda e che con lui non l'avrebbe mai fatta. Insomma, la sensazione è che sia ancora un po' più influente rispetto a Materazzi. Materazzi è chiaramente un campione del mondo, è stato un grande giocatore, un personaggio simpatico, anche ovviamente molto polarizzante, che può piacere, che può non piacere, certamente è un grande della storia recente del calcio italiano, però non ha lo stesso potere di condizionamento su De Laurentiis, tanto per fare un esempio, che magari Conte può pensare che Capello possa avere invece nei confronti di Agnelli. Quindi secondo me c'è anche questa chiave qui, ricevere una critica da Capello per Conte è molto più pesante che ricevere una critica da Materazzi certamente per Benitez. Io prima di salutarvi, ragazzi, Pierluigi Pardo e Boris Sollazzo, volevo chiedere a Boris, insomma, la settimana dell'incoronazione di Benitez da parte di De Laurentiis a questi microfoni. Benitez è mio uomo, mio fratello, mio cugino, mio zio, mio papà. L'ho incontrato una mattina a colazione e da lì ho capito che sarebbe stato amore eterno. Mazzarri invece, il nuovo non li faceva giocare. Maradona, sì, Maradona lo voglio sposare per fargli fare la regina del Napoli nel mondo. Ma guarda, Aurelio, può sembrare cinematografico in questo senso, poi in verità... Può sembrare, in realtà lo è. In verità lo è, però devo dire che proprio lui è umanamente così nei rapporti professionali, che considera fondamentali, importanti, ma penso anche al rapporto che per esempio ha con Neri Parenti, si affeziona in maniera fortissima, ma anche con Carlo Verdone, lavorano insieme da 9 anni, è un sentimentale, uno che ancora non ha rescisso il cordone ombelicale con Reia, quindi... non bisogna sottovalutarlo. Poi lui ha sempre quell'affare un po' arrogante, un po' anche violento, e quindi non te lo immagini emotivo, ma lo è in particolar modo. Io di me dico che questo carro del vincitore, questo carro di Rafa, prima lo guidavo solo io, adesso è pieno, quindi mi sa che scendo, perché che devo fare, cioè non ha... Sollazzo scende, Pardo. Dal carro di Rafa. A sorpresa, lo spingi da sotto. Scende dal carro di Benitez che era spopolato fino a una settimana fa, e invece adesso scende. Vabbè. Scherzi a parte, è successo quello che io dicevo. Bisognava dare del tempo. Adesso probabilmente magari perdiamo con lo Swansea e sicuramente riscenderanno tutti. Certo, sa tutti di sali. Perché poi rimane un anno di transizione anche dopo 3 vittorie così importanti. Cioè io continuo a pensare che questo è un Napoli a cui bisogna dare del tempo, che potrebbe avere altri fallimenti, potrebbe dare altre gioie, e che giocherà la sua partita più importante nel calciomercato estivo di quest'anno. Sì. Là secondo me diventerà, là si capirà se si farà l'Italia o no, o se si farà Napoli o no. Nel senso con pazienza, adelante con giudizio secondo me, perché il Napoli in questo momento storico, l'ho detto molte volte, è perfetto così con Benitez allenatore. Squadra da sprint, da coppa, da risultato, da exploit. Non è una squadra nemmeno per profondità da maratona, dunque secondo me è bello che viva così il Napoli, con tutte le sue controversie, contraddizioni, eccetera, eccetera. Ma credo che anche Pardo, anzi so che anche Pardo è d'accordo. Sì, sono d'accordo, ma soprattutto voglio dire che stasera a Tiki Taka c'è un'intervista a Maradona, ci sono Moscardelli e Perin, ecco questo. E non mi invitare quando c'è Maradona, cioè io questa proprio me la segno. Pardo, sei cattivo, No, oh, no, guarda che sei perfido. Sollazzo è venuto a Milano e ha fatto la gran figura, e lo dico veramente senza no, ma io voglio conoscere Maradona con tutta la buona volontà. No, ma è un'intervista, per cui io comunque... Però adesso è esterna, dimmi che non è in diretta. No, no, non è in diretta, è un'intervista. Ah, meno male, perché sennò non ti... Ma guardala, è mezzanotte e mezza stasera, Italia 1, eh. Io ti guardo sempre, Pardo, sempre, pure gelosa mia moglie. Cioè, non scherziamo, guarda. Rovina matrimoni, disgraziato. Esatto. E non inviti sollazzo, ma vergogna, ti parlo, dai. Ma pure c'è, ma perché non vieni? Cioè, ma adesso ma faccio... Io, comunque posso dire una cosa, mi faccio un minimo di autopromozione. Oggi su extranapoli.it ho messo i 10 motivi per cui gli anti-Raffaeliti possono essere comunque possono comunque dire la loro, cioè possono lamentarsi comunque. Ci sono 10 motivi per cui Rafa può essere ancora contestato. Gli anti-Raffaeliti, gli anti-Raffaeliti è qualcosa di elegiaco, proprio una cosa da Vecchio Testamento. No, sì, lo so. Maresani mi sa che lo salutiamo, eh? Ragazzi, non state bene voi, eh? Per l'ennesima volta mi hanno mandato via dal Napoli, eh? Sì, dopo Napoli-Genoa 6-1. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao, domani. Ciao Boris Sollazzo. Ci fermiamo per il traffico, ma Stefano, Palermo, Giuseppe, Pavia, Claudio, Firenze, state lì che parliamo subito dopo il... No, non il traffico, il GR. Tutti convocati. Stefano e Giuseppe, grazie per l'attesa. Dica Stefano a Palermo, buongiorno. Grazie innanzitutto per essere stato convocato. Grazie. Allora, a proposito di Balotelli, campione sì, campione no, vorrei dire che non a caso Balotelli ha segnato quando Seedorf si è deciso a far entrare Pazzini, quindi Balotelli è leggermente arretrato e ha fatto il gioco che è più congeniale per le sue caratteristiche, almeno in questo momento. Poi aggiungerei che il Milan non si ostina a fare un modulo di gioco per il quale non ci vogliono campioni molto motivati, dunque sarebbe meglio un onesto e più umile 4-4-2 per mettere Balotelli nelle condizioni di lavorare meglio. Grazie, vorrei sapere grazie, il vostro parere. Grazie a lei Stefano. Allora, sul primo punto penso sia incidentale il fatto che fosse in campo Pazzini in quel momento, perché il gol di Balotelli è stato un lampo nel buio, cioè esclusivamente un gesto uscito dal suo talento enorme. Mi torna in mente la dichiarazione del Ciolo Simeone quando dice è in grado di resuscitare partite morte. Quella partita era morta e sepolta sullo 0-0, a prescindere dall'ingresso di Pazzini, forse tardivo. Anch'io probabilmente vedrei meglio una copia Pazzini-Balotelli, però è chiaro che poi bisogna disegnare tutti gli equilibri di centrocampo che sono già troppo precari, quindi soltanto così. Quanto al 4-4-2, non rientra nella mission presidenziale, non rientra nei disegni, nei voleri del proprietario del Milan, dunque lo escluderei, tenderei ad escludere l'impiego, anche conoscendo Seedorf, di quel tipo di strategia di base. Giuseppe, buongiorno. Eccomi, buongiorno, eccomi. Grazie per essere stato convocato. Grazie a lei. Io vi volevo porre due questioni sulle quali mi piacerebbe avere la vostra opinione, sì. Che è questa. Sono queste. Allora, una riguarda il modulo della Juventus. Io ritengo che sarebbe stato utile cambiarlo, ma non per una questione tattica, ma perché penso che poteva essere d'aiuto a mantenere alta la concentrazione del giocatore, cioè cambiargli, dargli qualche cosa di nuovo, poteva essere utile a dargli degli stimoli nuovi, senza andarli a cercare altrove. E l'altra è una cosa totalmente diversa sul calcio giovanile, io vedo i ragazzini. Da qualche anno è stato introdotto l'autoarbitraggio, cioè i ragazzini decidono loro quando fallo, quando la palla è fuori, perché doveva essere per abituarli ad essere corretti così. Secondo me è un errore, perché intanto non li abituiamo ad avere la figura di un arbitro che nel bene e nel male, sbagliando o no, decide. E sviluppiamo, poi si vedono che ci sono quelli più ingenui che quando c'è il fallo la palla fuori si fermano e chiedono il fallo, i più furbetti che vanno avanti quindi vengono fuori delle discussioni, delle cose, perché magari anche qualche allenatore gli dice se la palla è un po' fuori vai. Sì, ecco. Io le dico, rifletterò sul punto, secondo me avere una figura che insomma fa dei fischi, che prende delle decisioni, è abbastanza così importante. Detto questo, se c'è una cosa che io davvero non tollero è vedere sti ragazzetti che se la prendono con un adulto che è lì a fare l'arbitro. Questa è una cosa, è la cosa più aberrante cui capita di assistere. quindi sul punto non saprei. Mi sembra, se è stato deciso di far così, vista anche la penuria di arbitri, si può andare avanti con questo esperimento e poi vediamo come viene. Soci. Soci 2014. Maria Pia Vals Beltrán, buongiorno, oggi non ti faccio il trivia, sei contenta? Contentissima, buongiorno a voi. Buongiorno. Oggi stranamente qui a Sochi non c'è il sole. Tu non c'è sole? Questa è la notizia. Questa è una notizia perché pensavo fossi a Miami, ormai stavo cominciando a pensare che tu ci avessi ingannati tutti e fossi a Miami. Ma comunque, cos'è successo oggi, cosa succederà oggi? Allora, vuoi che ti parli di Vladimir o possiamo saltare l'argomento? Lo consideriamo già trattato? Consideriamo trattato. Grazie mille. Allora, hanno sospeso le gare dello snowboard questa mattina perché le condizioni della pista non rendevano possibile la discesa da parte dei ragazzi. C'erano i nostri impegnati dopo che ieri Michela Mojoli quasi c'entra un bronzo che sarebbe stato storico, perché è giovanissima, 18 anni, alla prima Olimpiade, è passata in finale dopo una semifinale stranissima, perché sono cadute tutte davanti a lei, come è capitato anche nello short track ad Arianna Fontana. Quindi entra in finale con il photo finish, parte malino nella finale, poi riesce ad agguantare a quasi il terzo posto e cade rovinosamente, spaccandosi purtroppo i legamenti crociati. Quindi insomma, la giornata di ieri è stata un pochino sfortunata per lei. Oggi ci si doveva riprovare con Vincenzo per quanto riguarda gli uomini, ma la nebbia ha impedito lo svolgimento delle gare. Anche il biathlon delle donne è stato posticipato proprio perché non erano delle migliori. Succede qualcos'altro nel pomeriggio? Allora, nel pomeriggio, oggi vi dico, una giornata abbastanza, tra virgolette, tranquilla. Noi abbiamo approfittato che le gare fossero un pochino ferme per andare a parlare con qualche mamma delle italiane. Ho incontrato la mamma di Carolina Kostner, che è rientrata dalla Germania. Allora, lei ha partecipato alla cerimonia di apertura. Dopo la prova squadra è rientrata in Germania per allenarsi ed è ritornata qui a Sochi ieri sera. Sì. La mamma invece qui da l'8 febbraio, quindi ci siamo fatti raccontare un pochino come sta vivendo questa esperienza olimpica, come si trova. Dice di aver già fatto conoscenza con altre mamme, che è comunque bello il fatto di condividere le apprensioni, le ansie che i genitori degli atleti vivono insieme a gente che magari arriva anche da altri stati del mondo. Quindi è stata molto carina. Questa sera c'è il programma libero per quanto riguarda il pattinaggio, la danza nel pattinaggio, e ci sono due nostre coppie impegnate, quindi questo è quanto. Perfetto, si danza sul ghiaccio. Grazie Maria Pia, a domani. Grazie a voi, a domani. Ciao, abbracci. Vincere questa gara di tiro da tre con tantissime altre stelle che precedentemente l'hanno vinta è veramente un sogno che si realizza. Cioè, per me, secondo me, è ancora difficile realizzare tutto ciò, però posso dirvi solamente che sono veramente super contento. Marco Bellinelli ieri ospita i nostri microfoni, ieri nel tardo pomeriggio, dopo aver vinto la gara del tiro da tre punti, e io ho bisogno di attingere alla memoria storica di Luca Chiabotti, storica appena della Gazzetta dello Sport, per chiedergli quanto vale questo, quanto vale questa iscrizione di un italiano, di Marco Bellinelli, nel libro d'oro dell'NBA. Buongiorno a tutti. Ciao. Quanto vale? Sì. Tanto, perché anche se noi poi che seguiamo la pallacanestro trattiamo un po' questi, diciamo, concorsi, lo Star Game, come una festa, come un qualcosa ovviamente che ha più a che fare con Showtime e lo showbiz che con la pallacanestro vera, non possiamo non ricordare che il primo a vincere questa gara è stato Larry Bird per tre volte, che comunque l'hanno vinta Ray Allen e Paul Pierce, e soprattutto che Marco fino a qualche giorno fa, adesso è nelle primissime posizioni, non è più primo, ma comunque era al comando della percentuale da tre tiro da tre nel campionato NBA, quindi non è soltanto uno show, è stata la conferma che se si tratta di tirare e se si tratta di fare determinate cose, Marco è veramente ai massimi livelli del mondo. Quindi importante, bello e significativo, non solo per lui ma per tutta la Beh, certo, Italia, anche perché è una prima volta a quel livello. Insomma, noi ormai da molti anni, dai tempi di Larry Bird, di quelli che citavi prima, aspettiamo questo Star Weekend un po' per curiosità, un po' per vedere queste esibizioni borderline, però vedere il numero 3 italiano che alza quel trofeo, quella palla, quella coppa strana, che poi è lo stesso trofeo di chi vince l'NBA, a me ha fatto molta sensazione, mi ha dato molta gioia. Poi il pensiero successivo è stato: adesso però vorrei vedere uno di questi che alza il trofeo vero, quello di fine stagione. Ah certo, anche perché la nostra storia nelle post season, come le dicono gli americani, nei playoff è molto misera, perché ne ha fatte poche partite, ha fatto poche partite Bargnani, Gallo e Gallinari, anche lui si è visto abbastanza poco, più per colpa degli infortuni magari, ma comunque non abbiamo una grande presenza, quindi sarebbe un rompere un nuovo, anche solo la finale sarebbe rompere un nuovo così traguardo e mettere una bandierina nella nostra storia, e poi con una bellissima lezione, una bellissima storia, perché Bailey ogni minuto, ogni tiro che ha fatto in questi anni se l'è guadagnato, perché non è entrato come prima scelta come Bargnani e Gallinari, certo. Non ha avuto contratti garantiti, ogni volta ha dovuto ricominciare da capo, e anche quando giocava bene non era detto, come è successo l'anno scorso a Chicago, che avesse il contratto per l'anno successivo, per cui è anche una storia importante e da meditare per chi ha quel talento e vuole arrivare là, certo, su Luca. Cosa si debba fare, ecco. Certo, anche perché lui anche fisicamente rispetto agli altri due è una guardia di un metro e 97, di meno di 2 metri, e nell'NBA è merce molto comune, quindi doppiamente certo. Bravo per aver avuto la garra di arrivare fin lì. Luca, ti ringrazio. Alla grazie prossima. A tutti, grazie, arrivederci. Luca Chiabotti. Ciao. Ci fermiamo qui ringraziando Lorenzo Nespoli, oggi in redazione, Roberto Scaltritti in regia, domani di nuovo tutti convocati alle 2. Ciao! Forza Cristo, 2:06:29, secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggeler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggeler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggeler. Arianna che serve un primo giro. Dai Arianna che l'argento si può fare. Arianna Fontana argento. 5:20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Christophe Hinnerhofer, che arriva. Abbiamo una medaglia di bronzo con Christophe Hinnerhofer. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sprintare il tuo sprint. Zushi Arianna. Chiudi e lanciati. Zushi Arianna. E bronzo. Seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. Yes! Yes! Yes!